già vincente, sai essere alla buona. Se ti fidi della gente, ma non credi alla befana. Se non dai la colpa agli altri, sbagli che tu fai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se sei forte quando serve, ma sai chiedere anche scusa. Se vai piano in certe curve, ma sai vincere in ripresa. Se sai mettere d'accordo chi non c'è riuscito mai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Stanchi mai di addormentarti stanco, se c'è un bambino in te e te lo porti a fianco. Se non ti prendi mai troppo sul serio, comunque tu vivrai, vivrai davvero. Se ti sai svegliare presto, quando vai a letto tardi, se rimani quasi onesto, in un giro di miliardi, se sai piangere di gioia, senza vergognarti mai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai, tu vivrai. Se non ti stanchi mai di cose da imparare, se non ti sprezzi mai quel che non puoi avere, nessuno riuscirà a malottarti. Saprai di cose ti mai toccare fondo. Se sai toglierti dal cuore chi ti stava derubando, se sai dare tanto amore quanto ne riceverai. Vivrai, tu vivrai,